E Natasha Atlas, che compone la maggior parte delle sue canzoni, ma è anche ripreso dei classici del repertorio orientale di Abdelalim Hafez, Umm Kulthum, anche Feroz. Le sue origini sono moltiplici: egiziana, britannica, marocchina, palestinese, musulmane e ebraica, e quello rende il suo sguardo particolarmente pertinente sull'attualità politica di questa regione del mondo della Palestina. E questa canzone infatti è proprio rivolta per il popolo palestinese, anche da cui lei appartiene, e dice perché stiamo lottando mentre siamo tutti insieme. Ascolti il tuo cuore e conoscerà la verità. Tra noi c'è una lunga storia, perché stiamo lottando quando siamo tutti insieme. E questo lei riprende queste parole. Ritorniamo alla pace, ritorniamo all'amore. E riparlo dopo del Natasha Atlas. Dunque, dicevamo che c'è Rasha Saab che sta arrivando a Roma, che comunque è già arrivata, per questi 3 giorni di iniziative con lei, a mercoledì 17 ottobre alla Facoltà di Sociologia della Sapienza. Ci sarà alle 13 un pranzo sociale, poi alle 3:30 un'assemblea dibattito. Piazza Tahrir, fra lotte, mediatizzazione e repressione, e poi un'iniziativa con una cena e una proiezione e un dibattito. Giovedì al Porto Fiuvale, sala del tè rivolta alle donne, e venerdì non ce l'ho. Giovedì e venerdì non lo so, scusate. Poi comunque ritornate sul sito del Free Palestine e troverete tutto. Rasha Saab è una compagna che vive in Egitto e tra coloro che animano la campagna No Military Trials for Civilians. Sarà un'occasione per riconoscere insieme le strategie della repressione nei confronti delle donne e scambiarsi le pratiche di lotta che scegliamo avventando confini, muri e gabbie. E incontrarsi e scambiare la nostra esperienza di donne attive nelle lotte è un passo per rompere l'isolamento nel quale vorrebbero consegnarci e un contributo alla lotta collettiva. L'incontro tra donne dal titolo Rivolta alle donne si terrà giovedì 18 ottobre alle 18 al fronte del porto, sala del tè, all'occupazione del Porto Fluviale. Io vi volevo proporre dunque un passaggio del documentario che è stato fatto con lei, Parole di donne egiziane, e in cui lei racconta un po', prima ha raccontato un po' il suo percorso e soprattutto il suo impegno nel gruppo che si chiama Kefaya. Racconta le manifestazioni a quale ha partecipato anche quando era al liceo, durante e contro la guerra in Iraq, o per sostenere la prima intifada palestinese, l'inizio del movimento Kefaya. E solo per dire che racconta che comunque questa rivoluzione non è arrivata per caso, non è che un giorno, il 25 gennaio, il punto alto delle prime manifestazioni è arrivata così. Ma in questo pezzo racconta appunto l'inizio e dice inizierò prima del 25 gennaio 2011, il 14, quando Ben Ali è fuggito dalla Tunisia. 14 gennaio, quando Ben Ali è fuggito, Ero in strada acquistando un po' di cose con i miei amici. Un amico mi ha chiamato per darmi la notizia, non potevo crederci. Stavamo camminando e dicevamo alla gente: Ben Ali è andato via. Il primo presidente arabo a fuggire per la rivoluzione popolare. Le persone mi guardavano totalmente incredule. Qualcuno mi chiedeva chi fosse Ben Ali. Altri dicevano: il nostro non fuggirà mai. C'è stato il secondo discorso di Mubarak che ha diviso il popolo nella notte di martedì. Alcuni pensavamo di aver fatto il proprio dovere e che ora potevamo tornare a casa. Io ero tra quelli che credevano che se fossimo tornati a casa ci avrebbero massacrati. Dovevamo continuare. Dovevamo continuare fino alla dimissione di Mubarak. Di notte un sacco di persone hanno lasciato la piazza quel martedì sera. Anche alcuni dei nostri amici, alcuni scrittori, intellettuali, pensatori se ne sono andati. Il Consiglio Supremo delle Forze Armate, SCAF, ha combattuto la rivoluzione fino dal primo giorno e ha fallito. Durante i primi 18 giorni lo SCAF ha fatto di tutto per fermare la rivoluzione, detenzioni, torture. Le torture sono state terribili durante quei 18 giorni. Dopo lo sgombero in Piazza Tahrir del sitting del 9 marzo c'è stato un punto di svolta sia per i vari gruppi politici sia per la gente comune che è rimasta scosciata dallo SCAF, visto come voce e continuazione del regime di Mubarak. Si sono liberati di Mubarak perché era un ostacolo, ma la corruzione delle forze militari è rimasta al potere. Sono stata arrestata, picchiata e portata in una zona militare. Ho visto con i miei occhi persone torturate. Sono stata picchiata, le ragazze sono state picchiate, sono stata attaccata mentre andavo al museo. Mi hanno legato al muro, ma tutti questi... D'ora in poi diremo: sono un civile, non sarò impiegato dal procuratore militare. Abbiamo lavorato duramente, fatto video su tutto quello che succedeva. Abbiamo fatto un'assemblea cittadina coinvolgendo gli interessati. Un sacco di gente ha dimostrato interesse e abbiamo fondato il movimento Niente Processi Militari per i Civili, che è un gruppo che ha lavorato e ha contribuito di maniera massiccia e ha attirato un gran numero di gente. Ha contribuito alle mobilizzazioni durante tutto l'anno e hanno aiutato a difendere informazioni. Che cosa significa essere pacifista? Che quando ti sparano rispondi come le pietre viene definito con un baltalgo, un delinquente. Pacifista vuol dire che quando ti schiacciano con i carri armati e picchi, tu vieni accusato di essere l'aggressore. Pacifista. E tu gli rispondi con il molotov e diventi... E la gente crede che la rivoluzione sia Piazza Tahrir, sia Piazza Tahrir, e questo non è vero. Non è vero che sono stati 18 giorni di sitting a far crollare Mubarak, non è vero. Come si è arrivati a Piazza Tahrir? Questa è la domanda. Ha raggiunto Piazza Tahrir dopo 40 ore non stop di scontri. La piazza non sarebbe mai stata aperta se non fosse stato per i quartieri che hanno iniziato le battaglie nelle loro zone. Tutto questo, parlare di pacifismo, è iniziato con il nostro confronto con i militari. Questa porta un messaggio importante da parte di loro: vieni picchiato, poi torni a casa a dormire, come sotto Mubarak. Abbiamo vissuto 30 anni di pacifismo sotto Mubarak, ma per rispondere alle uccisioni e alla violenza con... La violenza minore non è proporzionale a quella dello Stato. La violenza organizzata dello Stato è un reato. E questo dunque lo trovate su Parola di Donne Gistiane, ma ancora di più la ritroverete giovedì sera, anche il mercoledì e giovedì sera al Portefiuvale. Continuo con Natasha Atlas, che ha scritto Il printemps, la primavera. Scusate, sono un po' stata brutale. No, volevo dare un altro sguardo di una femminista algerina sociologa conosciuta per i suoi lavori contro il fondamentalismo religioso, che tra l'altro è stata fondatrice di Women Living Under Muslim Law in 84 e Secularism is a Woman's Issue in 2005. Lei si chiama Mariem Eli Lucas. Questa intervista è stata pubblicata a parte sul sito di Women's Living Under Muslim Laws. L'hanno fatto le compagne donne del sito Feminist India. E li chiedono, le donne hanno avuto un ruolo cruciale nelle sommosse arabe iniziate alla fine del 2010. Dopo quasi due anni si dice che le donne sono le perdente in questa rivoluzione. Secondo te, che cosa è andato male? Niente è andato male. Era chiaro dall'inizio che questa rivoluzione non era né socialista né femminista. Nei due casi, in Tunisia e in Egitto, era limitato a rovesciare il governo. anche se lanciata da gente che hanno preso la piazza per ragioni di povertà e di perdita di speranza, nei fatti è divenuta la vittoria delle forze di destra che hanno lavorato sotto l'apparenza della religione. Dopo l'eradicazione dei partiti e movimenti di sinistra, dei sindacati, di operai che c'erano da decenni e che è stata completamente ignorata o poco rapportata dai media internazionali, le uniche forze politiche in Tunisia e in Egitto sono stati i religiosi fondamentalisti. Hanno rubato il movimento di protestazione. È interessante di notare che, al contrario della mancanza di visibilità delle attacche contro le forze di sinistra, le media internazionali hanno ampiamente rapportato la repressione dello Stato contro i movimenti fondamentalisti. In questo senso non hanno solo spinto il mondo a un'analisi politica squilibrata, ma hanno fatto visibilità ai movimenti religiosi e di destra, come i Fratelli Musulmani, e li hanno fatto vedere solo come vittime dello Stato e non come promotori di grave violazioni di diritti del cittadino e in particolare di diritti delle donne. Come la destra musulmana l'aveva già fatto in precedenza in altri paesi, come in Iran o in Algeria, i gruppi e i partiti fondamentalisti in Egitto e in Tunisia hanno manipolato la rabbia legittima della gente che non avevano più il minimo per vivere. Sicuramente l'Algeria degli anni 90 è un esempio perfetto della loro strategia. Possiamo considerare che l'Algeria è stata un laboratorio di come sono andate le cose poi in altri paesi. I regimi tunisidi e egiziani non erano più o meno non democratici della maggior parte dei paesi del mondo oggi, come lo conferma l'ampiezza dei movimenti degli indignati che per più di un anno hanno protestato contro le regole politiche in Europa e negli Stati Uniti. Ma l'argomento della mancanza di democrazia è stato ampiamente utilizzato per legittimare il rovesciamento di questi governi senza preoccuparsi di chi sarebbe arrivato dopo. È duro di credere che i politici e giornalisti in tutto il mondo hanno celebrato il popolo che stava facendo la rivoluzione senza investigazioni su quali sono le componenti delle forze dentro il popolo, concepito in termini liberali come atominazione di individui o sulla tendenza politica che stavano crescendo parlando al nome del popolo e anche senza chiedere che cosa queste forze avrebbero proposto dopo la caduta del regime. È un errore politico che molti algerini hanno denunciato, avendo fatto i stessi passi. Una giovane rivolta nel 88, non iniziata dai fondamentalisti, ma subito recuperata da loro. Una richiesta di nuove elezioni come unico modo di assicurare la democrazia e i fondamentalisti che hanno imposto la sharia al popolo intero. C'è proprio bisogno a riflettere sulla democrazia come concetto e elezioni come unico criterio della valutazione della democrazia. Se non lo facciamo finiremo per celebrare Hitler come il campione della democrazia semplicemente perché è stato eletto. Il fatto è che in Tunisia e in Egitto la gente ordinaria è scesa in piazza chiedendo cambiamenti e le forze populiste di destra hanno recuperato il movimento per il loro proprio benefici. Sono stati abbastanza smart di non apparire troppo visibili all'inizio delle proteste, tuttavia c'erano e avevano abbastanza soldi e strutture per aiutare per le tende e la distribuzione di cibo, per controllare e dare un contenuto politico alla protesta iniziale. Entrambe in Egitto e in Tunisia le richieste erano limitate all'inizio a basta, via, che erano i principali slogan dei manifesti. Le altre parole, i manifestanti chiedevano cambiamenti, ma non erano chiari su formulare il contenuto del cambiamento in termini politici. Le battaglie popolari legittime possono aprire la via ai partiti populisti dell'estrema destra, nel caso della Tunisia e dell'Egitto, partiti religiosi o piuttosto estrema destra lavorando sotto copertura della religione. E quest'anno per l'8 marzo continuo questa intervista fatta a Mariem Eli Lucas. Allora, quest'anno per l'8 marzo i cortei di donne sono stati assalti dai gruppi di uomini al Cairo. Alle donne si chiedeva di tornare a casa e di fare i panni. Tante donne egiziane avevano già lanciato l'allarme su che cosa succedeva per strada: attacchi, insulti, abusi da islamici e uomini perché non abbastanza coperte. Ma non è, e lei risponde, ma non è sorprendente che il mondo scopre questi abusi e attacchi verso le donne quando non si sono mai fermati durante tutti i mesi dopo la rivoluzione. In Egitto parecchie donne giornaliste sono state stuprate sulla piazza Tahrir dai manifestanti come nei commissariati. L'hanno reso pubblico: donne manifestanti abusate dai manifestanti uomini durante le manifestazioni, non solo dalla polizia. Centinaia di donne sottomesse a un test di virginità. Tante foto e video di donne spogliate dalla polizia hanno fatto il giro del mondo. Uomini con la barba hanno attaccato le donne con bastoni dentro le manifestazioni pacifiche in Tunisia, e le donne anche lì sono state molestate. Questo è successo mesi fa, un anno fa. Per me la domanda è: perché questo esce adesso? Perché iniziare a puntare solo adesso i gruppi islamici quando erano presenti dall'inizio? È un sindrome antistato comune della sinistra di fare l'elogio del popolo e rifiutare di identificare dentro i Fratelli Musulmani e altri movimenti di destra? E il fatto che i fondamentalisti erano opposti allo Stato e hanno fatto fallire il tiranno e dunque sono stati protetti? O perché adesso hanno perso la loro immunità agli occhi della sinistra perché sono stati eletti ufficialmente al potere? Come femministe, quale sarebbe la principale lezione che abbiamo imparato dalle insurrezioni arabe? Ci sono tre punti importanti su quali riflettere. Come cittadine progressiste dobbiamo tenere in mente che le rivolte popolari non sono sempre progressiste, che il malcontento popolare non è in sé e per sé un'agenda, non ha in sé e per sé un'agenda politico. Questa agenda può essere determinata da forze di destra che si impadronano delle proteste per i loro profitti. Dobbiamo riflettere sul limite dei parlamentari democratici quando portano l'estrema destra al potere. Elezioni per sé non sono garanzie di diritti sociali in generale, in particolare per le donne. In questo contesto generale della crucità del politico religioso, lottare per il secolarismo è essenziale per le donne. Una totale separazione tra religione e politico. Come femministe dobbiamo ricordarsi che le donne hanno sempre preso parte ai movimenti rivoluzionari e ripetutamente ignorate e rimandate alle loro attività domestiche dopo le rivoluzioni. È stato così per Olympe de Gouges nella rivoluzione francese, Kollontai nella rivoluzione sovietica e tante donne della mia generazione nelle battaglie di indipendenza in Africa o in Asia nella seconda parte del XX secolo. Le donne hanno preso parte all'insurrezione in Egitto e in Tunisia, ma non hanno né il leadership, non hanno dato forme all'agenda politico. Le donne hanno sempre o difficilmente avuto accesso a queste posizioni politiche durante le rivoluzioni. Inoltre, le donne non sono necessariamente progressiste e femministe, come abbiamo visto. In questo momento un numero crescente di donne che hanno raggiunto i gruppi fondamentalisti. Ci sono tante donne in tutto il movimento della destra, come nei partiti nazisti in Germania o fascisti in Italia. Per andare avanti sull'agenda femminista, per chi riguarda i diritti delle donne, abbiamo bisogno di femministe progressiste, pensatrici, politiche dentro l'insurrezione e un movimento femminista forte che le appoggia e monitora le loro azioni. Questo dunque intervista a Mariem Eli Lucas sul sito Feminist India e il suo sguardo sul dopo della rivoluzione egiziana. Mentre adesso mando ancora una canzone di Natasha Atlas che lei aveva scritto già nel 2009, una canzone che si chiamava Rise Up to the Freedom in Egypt, che ha rifatto un mix all'occasione del primavera egiziana. We have a lot riding on the outcome. أيها الإخوة المواطنون، إن خيط الرفيع يفصل بين الحرية والفوضى. Stiamo ascoltando Natasha Atlas e volevo aggiungere questa cosa là, che è stata ultimamente contattata per dare un concerto in Israel per il prossimo dicembre. A un certo momento avevo quasi accettato questo invito perché è attaccata alla riconciliazione dei popoli, ma questa riconciliazione, dice lei, tra i popoli passa dalla giustizia, il rispetto del diritto internazionale e che le violenze dei diritti umani si fermano. Lei raggiunge la campagna boycott, disinvestimenti e sanzioni contro lo Stato Israele e dunque decide di non andare a suonare in Israele. Vabbè, si potrebbe dire molto di più sul suo impegno verso il popolo palestinese. Dobbiamo scegliere, purtroppo, visto che siamo quasi alla fine. E un'altra cosa che vi volevo mandare è questa giovane regista, Nada Satouna, giovane perché ha 22 anni, e vi mando due piccoli pezzi della sua intervista. هو انا حاسه ان امور هتسير في الاخر ان هو حكم عسكر وحكم اسلامي اجتماعي لازم اكسر حاجه حصلت جوايا يعني. حكم عسكر او بوتر ميليتاري او اسلاميكو هو انا حاسه ان امور هتسير سنتو كي فينيريمو سوتو ان بوتر ميليتاري كون ليجيمونيا سوشيالي الي اسلاميشي ان ديت الوسيله الوحيده للسيطره per questo è l'unico modo per loro di controllare il popolo. Penso che la corrente islamica wahhabita è come la nuova religione che divide le famiglie e gli amici. ان التيار الوهابي ده زي الدين الجديد اللي جه فرق فيها ما بين القرايب وبعضهم وكده. وانا بقول لماما كنت بقول لماما من زمان حتى ما تحصل انا قبل ما تحصل الثوره dicevo sempre a mia madre anche prima della rivoluzione che saranno loro a ucciderci gli islamici. الكلام ده انا عارفه ان انا هموت على ايد الناس دي يعني انا مش يعني جثتي قبل ما يوصلوا للكرسي. ساعات بيصيبني الاحباط che loro per prendere il potere dovevano passare prima sul mio corpo. من الناس بصراحه مش الناس اللي في الشارع بيقول خلاص هم الناس عايزين كده. Onestamente a volte sono scoraggiata dalla gente, sento che loro vogliono che questi prendano il potere. يعني خليهم يعيشوا في حروب دائمه زي vivere una guerra costante come in Iran. No, non come l'Iran. L'Iran è molto meglio economicamente, parlando, ecco, come l'Afghanistan. Non saremo mai come l'Arabia Saudita né come l'Iran. Siamo un paese povero, quindi saremo come l'Afghanistan. Li combatterò con tutta la mia forza. Sono come le guardie e la polizia. Li odio più di loro. بالظبط بالنسبه لي زي يعني شعوري ناحيه الشرطه بالظبط بكرههم زي الشرطه بالظبط ممكن اكتر كمان بس. E dunque Nada Zatuna, Nada Zatuna c'ha uno sguardo anche diversi con tanti altri, perché lei fa parte di una minorità nel sud del paese dei Nubiani, e su questo anche è importante, interessante, perché non solo le donne sono state poi ritirate e cancellate dalla rivoluzione, sono stati anche altre comunità minorenne, anche se le donne non sono minorenni, ma comunque che non sono al potere. E lei dice: dopo la rivoluzione, gli attivisti nubiani hanno ripreso a chiedere i loro diritti. Sulla base che c'era una rivoluzione, che il vecchio regime è caduto. E adesso tutti avranno propri diritti perché finalmente c'è giustizia. Ci sono state proteste in Nubia, brutalmente represse dal governo militare. Da un punto di vista politico il discorso era: non è il momento di chiedere i nostri diritti, è qualcosa che può aspettare. Non lottiamo per una cosa persa, una frase famosa che di tutti quelli che vogliono nascondersi. Ecco, Nada Zatuna, vi invito ad andare sul sito di Free Palestine per ascoltare tutte queste interviste molto interessanti, molto forti, e che danno un panorama molto ampio e un po' diverso della rivoluzione egiziana, parole di donne. Per concludere, si conclude con Natasha Atlas. Questo era un piccolo contributo a diversi sguardi, per anche darvi la voglia di andare giovedì al Portefiuvale alle 18. Concludo adesso la Megaphonics di oggi, vi saluto, si continua con un piccolo agenda, Zanelle Mouli e poi il GR, una trasmissione di arte, eccetera, eccetera. Rimanete in onda. Listen is the rhythm of the universe. Listen to the universe pulsating. 娶来当波星。